edizione. Sono le 6 e 14 minuti e allora per chi a mezzanotte dormiva andiamo a sentire come è finito ieri sera al Festival di Sanremo, oltre al monologo di Celentano con le attese polemiche, dopo ore di maratona tra monologhi e canzoni, ecco come è finita a mezzanotte. Avete sentito le canzoni, sono tutte molto belle, stasera ne avevamo sentite, purtroppo per quanto riguarda le votazioni abbiamo avuto un problema tecnico. E tanto per rimanere in tema, sarebbe ingiusto sfavorire qualcuno visto l'impegno e la fatica di questi artisti. Quindi in deroga al regolamento del festival, Rai 1 e la direzione artistica, preso atto del guasto tecnico al meccanismo di votazione, hanno deciso di sospendere la gara di stasera, permettendo a tutti i 14 artisti di riesibirsi domani sera quando di nuovo ci sarà la gara. Però io vorrei ringraziare comunque per il loro impegno, per il loro lavoro, i giurati, inquadrateli e salutiamoli, perché ecco, non è giusto favorire qualcuno e sfavorire qualcun altro. Perché le votazioni si sono inceppati i meccanismi, quindi non si può. Veramente sarebbe molto grave. Vabbè. Occupate l'Ariston! Forza! Sentite, no, non è per mancare di rispetto, è proprio un guasto tecnico e dovete accettarlo. Lo avete sentito, insomma, tutto da rifare, proteste, fischi e poi ancora le polemiche su Celentano. Più che il Festival della Crisi, per ora davvero il Festival delle Polemiche. Siamo solo alla prima serata. Allora, tra poco sentiremo anche i commenti sulle prime pagine dei giornali. Andremo più avanti anche dalla nostra inviata e poi naturalmente molte altre notizie. Prima edizione. E allora ancora buona giornata da Anna Migliorati. Andiamo dunque sulle prime pagine dei quotidiani. Cominciamo con Avvenire. Perché l'avete sentite le polemiche dure di Celentano ieri sera al Festival di Sanremo, che ha detto Avvenire e Famiglia Cristiana dovrebbero chiudere? Allora, mettiamo subito cosa risponde questa mattina Avvenire. Un bello spettacolo è il titolo alquanto ironico dell'altro editoriale, firma Marco Tarquinio. Tutto questo, scrive Avvenire, perché abbiamo scritto che con quel che costa a lui, vale a dire Celentano, alla Rai per una serata, si potevano non chiudere le sedi giornalistiche Rai nel sud del mondo, in Africa, in Asia e in Sud America, e farle funzionare per un anno intero. Dunque andiamo chiuse anche noi, buona idea, così a tutti questi poveracci tramite il comune competente potrà elargire le sue prossime briciole di cachet. Davvero un bello spettacolo, viva Sanremo e viva la Rai. Naturalmente, caro Celentano, noi continueremo a parlare. Così la risposta dell'Avvenire questa mattina. Torneremo a parlare di Sanremo perché c'è anche altro naturalmente sulle prime pagine dei quotidiani, ma come sempre le aperture scelte questa mattina, e a campeggiare sulle prime pagine ci sono invece le Olimpiadi, il gran rifiuto di Monti per Roma 2020. Cominciamo doverosamente dal Messaggero. Olimpiadi a Roma, no di Monti, questo è il titolo d'apertura. Non firmata la garanzia per la candidatura nel 2020. Il PDL insorge, inaccettabile. PD e UDC dicono è buonsenso, troppo i rischi finanziari per l'Italia. Intervista al sindaco Alemanno questa mattina sul Messaggero, che dice: partito deboli è un atteggiamento da perdenti. La replica è affidata al ministro dello sport Piero Gnudi, che dice: un progetto giusto ma arriva nel momento sbagliato. Il Corriere della Sera: Monti dice no ai giochi di Roma, non sarebbe stato responsabile. E fa anche i conti, ne abbiamo parlato anche noi ampiamente ieri a prima edizione, di quanto sarebbero costati. La spesa prevista 800 milioni all'anno dal 2014 al 2018, ecco perché non ce lo possiamo permettere. La Repubblica: Olimpiadi, il gran rifiuto di Monti, non ce la possiamo permettere, così scrive anche La Repubblica. Insorge il PDL, la Lega applaude, la stampa, Monti cancella Roma 2020, gli sportivi sono delusi, non ci rispetta, 2 ore di anticamera, poteva almeno fermarci prima. Così il retroscena sulla stampa, ed è stato chiaro in conferenza stampa ieri anche il presidente del CONI Petrucci. La Gazzetta dello Sport, Monti dice no, troppi rischi, e allora anche qui un commento questa mattina, l'editoriale di Andrea Monti, giochi proibiti, peccato, a questi giochi proibiti ci avevamo creduto. Mario Monti, che non governa coi sondaggi ma li legge come, era tra gli scettici della prima ora. Ieri è spento la fiaccola degli entusiasmi, con getto ben mirato di blandizie, astuzia e ironia. Onestamente non si può dire che abbia il paese contro. Così l'editoriale sulla Gazzetta dello Sport, pagina chiusa. Roma non si candida, a questo punto è Tokyo la favorita per i giochi olimpici del 2020. Altro tema diverso, scelto dal Sole 24 Ore, che ovviamente apre in maniera completamente diversa dagli altri quotidiani questa mattina, perché punta gli occhi proprio sulle questioni economiche, con l'Europa che blocca gli aiuti alla Grecia, cancellato l'Eurogruppo di oggi, mentre Atene sprofonda nella recessione, meno 7% il PIL a fine 2011, venerdì ci sarà un vertice Monti-Merkel a Roma, va bene comunque l'asta italiana con 6 miliardi di BTP collegati a tassi in netta flessione, ed eccoli i conti per cui è arrivato ieri il no, il governo dice no alle Olimpiadi, troppe incognite, anche sulla prima pagina del Sole 24 Ore questa mattina, che naturalmente apre però, come dicevamo, sull'Eurogruppo rinviato, e questo sarà una questione da affrontare nella giornata di oggi. Sempre sulle prime pagine dei quotidiani, tagli centrali dedicati invece per lo più al Festival di Sanremo. Da una parte la polemica con Celentano, il televoto che non va, ma c'è anche altro. Sanremo, taglio centrale della Repubblica, si apre con il blitz della finanza, controlli anti-evasione nella città del Festival, Celentano contro tutti. Ebbene, che è successo? Blitz della finanza a Sanremo, controlli tra il casinò e l'Ariston. Ieri, alle prime note del festival, è scattata anche il blitz della Guardia di Finanza, e già scrive la Repubblica, stamani ai finanzieri sarà affiancato anche personale dell'Agenzia delle Entrate per censire auto di grossa cilindrata, imbarcazioni di lusso e relativi proprietari, e vedremo anche se qui, come a Cortina, come a Milano e come negli altri blitz, la finanza avrà fatto il miracolo. Oggi arriveranno naturalmente i dati. Stessa scelta anche per la stampa, il festival parte con un blitz della finanza, controllate bar, ristorante, bagherini nella zona del teatro Ariston, così in taglio centrale. Mentre per il Messaggero l'attenzione è puntata su Celentano, Celentano attacca i giornali cattolici, e così pure fa il Corriere della Sera, Celentano show contro la stampa cattolica, esordio con polemica, vi leggo, ed è già sufficiente il titolo del commento di Aldo Grasso questa mattina, il predicatore decadente, ormai convinto di predicare meglio dei preti, ma nel ruolo di profeta Salve Italia ne vogliamo uno solo, due sono troppi, o Monti o Celentano. Così Aldo Grasso sul Corriere della Sera. Corriere della Sera che in taglio centrale riporta anche un'altra notizia, decisa la pubblicazione online entro martedì, arrivano i redditi dei ministri. Così ha deciso ieri il Consiglio dei Ministri, entro martedì prossimo le dichiarazioni patrimoniali dei componenti del governo saranno pubblicate sui siti istituzionali online. E intanto ad anticipare questa decisione però ci sono già un ministro Profumo e alcuni sottosegretari, lo faranno nelle prossime ore poi anche Barca e Patroni Griffi. E allora andiamo a vedere, poi lo farà meglio naturalmente più avanti Alessandro Milan, ma nel frattempo quali sono i ministri che hanno già pubblicato. Ebbene, c'è Profumo che da ieri sera sul sito del MIUR ha fatto comparire la sua biografia con anche pagine di dati anagrafici e le sue dichiarazioni dei redditi. Complessivo annuo lordo per Profumo 199.778 euro, e ci sono tutti le varie voci, compreso un garage dal Bissolamare, un appartamento a Torino, una salina, 3 garage, che auto ha, insomma un po' tutto. E poi le azioni possedute, naturalmente, Intesa innanzitutto, e poi Banca Monte dei Paschi di Siena e via via dicendo. Anche altri due sottosegretari hanno pubblicato ieri sera già i loro redditi. Tra questi c'è anche Marco Rossi Doria, il segretario noto per essere stato un maestro di strada, dichiara 188.869 euro trattamento anno lordo, oltre alla docenza nella scuola primaria nella provincia di Trento. Così già online alcune delle dichiarazioni dei redditi. Solo qualche istante per un paio di segnalazioni molto veloci, perché c'è altro sulla prima pagina dei giornali. Il vigile ha sparato alle spalle, sempre dal Corriere della Sera, l'agente che ha ucciso durante un inseguimento a Milano, ora indagato per omicidio. Questo anche troverete sulla prima pagina dei giornali di questa mattina. Ancora un'altra notizia di cronaca invece arrivata nella sera, ce la ricorda il Messaggero: la sentenza per l'omicidio Sandri, 9 anni al poliziotto, la Cassazione conferma la condanna. Andrà in carcere perché, dice, vuole affrontare la situazione da uomo, ma ieri sera, quando la Gale gli ha comunicato che la Cassazione aveva confermato la condanna a 9 anni e 4 mesi, l'agente della Postrada Luigi Spaccarotella ha subito pensato ai figli piccoli. Confermata dunque e definitiva la sentenza per la morte, ricorderete, di Gabriele Sandri. Così gli approfondimenti questa mattina su il Messaggero. Altre segnalazioni? Beh, ci resta poco, ci restano ancora 30 secondi. Beh, allora ve la do molto velocemente dalla Repubblica. Una ricerca: il sonno perduto dei bambini, ora dormono un'ora in meno. Ecco la fretta e la tensione degli adulti, come si riversa sui più piccoli: dormono ormai un'ora in meno. Se già un secolo fa ci si lamentava per la mancanza di sonno, oggi le notti dei bambini si sono accorciate. Così leggiamo sulla Repubblica. E su il Corriere un'altra curiosità invece: a minacciare la lingua italiana non ci sono solo le parole straniere, ma anche le troppe metafore. L'italiano scompare, così arriva una nuova lingua. Così sul Corriere della Sera, qualche curiosità. Come sempre solo un assaggio dei giornali, perché alle 7.20 c'è la rassegna stampa con Alessandro Milan, e tra poco anche noi avremo approfondimenti e ospiti a prima edizione. Facciamo solo una piccola pausa e riepiloghiamo le notizie di oggi. Prima edizione. I puntualissimi ci aspettano le inchieste di Radio 24. Italia in controluce. Buongiorno a tutti, da Daniele Biacchiesi di Italia in diretta. Oggi è il 15 di febbraio, oggi parliamo di come attraverso un semplice video musicale si può trasferire la memoria del passato, soprattutto ai più giovani. I 7 Crani portano in giro per l'Italia la memoria attraverso un video che si chiama Neve diventeremo, e che è stato anche visto da moltissime persone. Anche recentemente siete andati davanti al Presidente della Repubblica nel giorno della memoria. Il progetto di questo video nasce innanzitutto da una canzone, appunto una canzone che ho scritto nel 95, tra l'altro, quando il giorno che è morto Rado Zuccon. Rado Zuccon è stato un partigiano istriano che ha vissuto ad Albiolo, si è sposato con una ragazza di Albiolo, quindi in provincia di Como, ed era un caro amico di famiglia. Rado raccontava molto spesso quello che gli era accaduto, quindi la deportazione a Buchenwald, gli arresti poi in seguito da parte di Tito in Jugoslavia. Raccontava le sue vicende più agli amici spesso che ai familiari. Infatti nostro padre, che appunto registrò, siamo su cassetto, chiamiamola un'intervista, ecco, un suo racconto, noi abbiamo raccolto questa testimonianza per farla diventare un progetto per la sua memoria da portare nelle scuole. Ecco. E come funziona dal punto di vista del vostro rapporto, soprattutto con i più giovani? Beh, vediamo che i ragazzi all'inizio appunto sono molto attenti, perché la prima parte di questo progetto che portiamo consiste appunto in un documentario che abbiamo realizzato appunto con la voce originale di Rado, l'intervista alla moglie e alcune testimonianze con delle immagini molto forti, I ragazzi sono molto attenti, notiamo veramente una grande partecipazione emotiva a questa cosa. Poi successivamente appunto c'è il video della canzone che abbiamo girato in parte a Buchenwald e poi abbiamo ricostruito le scene della deportazione e dell'arresto e poi c'è il concerto dove affrontiamo quella tematica, quindi sulla memoria e anche sulla resistenza, con canzoni nostre e con canzoni storiche come Auschwitz di Guccini, La guerra di Piero, un brano di Teodorakis. E vediamo poi quando, con l'incalzare anche del concerto con Mamì, che l'abbiamo rivisitata in una versione un po' più rock, poi facciamo Gioia e Rivoluzione, la canzone sulla pace, lo stare insieme, eccetera. Vediamo che i ragazzi poi piano piano cerchiamo anche di fargli sbloccare questa tensione, di farli anche cantare e vediamo che alla fine del concerto, del progetto, anche i professori sono molto contenti perché vedono che i ragazzi hanno preso e in più hanno anche partecipato emotivamente alla cosa, ecco. Avete ascoltato la voce del gruppo musicale Sette Grani e del video Neve Diventeremo. Era Italia in Controluce, prima edizione. Torniamo oggi con nuovi reportage e nuove inchieste alle 13.30 su Radio 24. Grazie Daniele Biacchessi e nel frattempo seconda parte invece di prima edizione, 6.39 minuti, ancora buona giornata, ancora buon mercoledì da Anna Migliorati. Torniamo a parlare di amianto questa mattina, perché dopo la sentenza torinese sull'Eternit non si chiude naturalmente la vicenda, anzi la Procura di Torino sta preparando un nuovo processo per omicidio volontario, tant'è che nella giornata di oggi Guariniello e Caselli proporranno alla Commissione parlamentare d'inchiesta sugli infortuni sul lavoro di istituire una procura nazionale della sicurezza sul modello francese. Allora, torniamo a parlare anche noi questa mattina. Sono 57 infatti i siti censiti in Italia come molto pericolosi e sono tendenzialmente aree industriali. Ci sono anche però tante altre micro situazioni difficili da censire, perché l'amianto è un problema diffuso ben più di quanto si possa pensare. Allora, a censirli ci ha provato il CNR, che ha messo a punto un sistema di telerilevamento per individuare le micro aree potenzialmente pericolose. Io saluto Lorenza Fiumi del CNR, buongiorno. Buongiorno. Dove sono e quanto sono pericolose, le chiedo? Le coperture in cemento amianto sono appunto dei manufatti, sono largamente stati utilizzati fino al 92, infatti l'applicazione più diffusa dell'amianto è stata appunto nei manufatti in cemento amianto, nelle lastre in cemento amianto. E recentemente abbiamo svolto un'attività di monitoraggio, ad esempio per la Regione Lazio, e i risultati sono stati estremamente significativi e decisamente ci hanno anche sorpreso. Perché? Cosa è emerso? Noi abbiamo acquisito circa 1000 chilometri quadrati, pari al 4,6% del territorio della Regione Lazio, e dall'elaborazione di questi dati telerilevati abbiamo caratterizzato esattamente 1.673.974 metri quadri di coperture in cemento amianto. Cioè, voi avete controllato questo territorio ed è emerso che tutto questo amianto ancora su questo territorio c'è, che se non sbaglio è l'area tra Civitavecchia e Frosinone, per intendersi. Sì, le aree esattamente sono Anagni, Aprilianzio, Civitavecchia, Frosinone, la parte est del raccordo anulare, Pomezia e Albano e tutto il tratto della via Tiburtina, dal centro di Roma fino a Tivoli. Osservando con questo sistema quest'area, voi avete scoperto che esiste ancora tutto questo amianto. Sì, sì, ce n'è. Ma ce n'era coscienza, cioè c'è coscienza di avere ancora tutto questo amianto attorno a noi? Diciamo che purtroppo non esistono, non sono mai state fatte delle stime sulla presenza di questo materiale. Sicuramente ecco, quello che manca è una stima complessiva a livello nazionale, e sia di amianto friabile contenuto all'interno delle strutture, in particolar modo del cemento amianto, che appunto, come dicevo, è l'applicazione più diffusa dell'amianto e non visibile, almeno ad occhio nudo. per gli esperti del settore sì, è visibile, c'è anche però da dire che il monitoraggio di queste coperture che è demandato dalle ASL avviene dal basso verso l'alto, quindi non sempre i siti, i fabbricati con coperture in amianto sono visibili, a volte non sono neanche accessibili e quindi non permette da parte delle autorità competenti, come appunto dicevo le ASL, di svolgere una reale attività di monitoraggio e di controllo del territorio. Noi come CNR abbiamo messo a punto questa metodologia che attraverso telerilevamento ci permette di poter avere una visione complessiva, una visione su vaste superfici dell'amianto, però poi anche questo, ci sono anche poi dei problemi di costi, per cui come appunto dicevo per il territorio della Regione Lazio abbiamo acquisito il 4,6% dell'intero territorio. Voi avete fatto questo parzialissimo monitoraggio per quanto riguarda il Lazio, le altre regioni italiane? Allora, relativamente alle altre regioni italiane, purtroppo anche qui attualmente chi ha provveduto è sempre su aree parziali, è la Lombardia, la Val d'Aosta, e la regione Emilia-Romagna, il Friuli Venezia Giulia. Purtroppo le altre regioni ancora non hanno provveduto alla mappatura dell'amianto, in particolare quelle del sud. Parliamo di aree industriali o ancora anche di aree di edifici civili utilizzati, insomma? Allora, buona parte di questi edifici sono come appunto sono di edifici industriali, artigianali. Ma dove si lavora? Dove si lavora, sì, non ci risulta, almeno sono stati molto limitati i casi di copertura in amianto in fabbricati destinati a civili abitazioni. Questo amianto è comunque pericoloso per chi ci vive, ci lavora, ci sta diverse ore durante la giornata? Il problema dell'amianto è che purtroppo col tempo, in particolare l'erosione eolica, le piogge acide corrodono la matrice cementizia della lastra e quindi liberano nell'aria le fibre. Queste fibre, se respirate, creano purtroppo i noti problemi all'apparato respiratorio. Quindi tante microsituazioni potenzialmente pericolose. Potenzialmente pericolose. L'aspetto anche che abbiamo rilevato è che molto spesso convivono fabbricati di carattere industriale a fianco, per esempio, scuole, ospedali, per cui con gente potenzialmente esposta. Dopo la sentenza di Torino, vi aspettate che si riaccendano i riflettori su questa situazione, che possano arrivare fondi per ulteriori interventi? Certo, sarebbe veramente auspicabile che in qualche modo questi nostri studi, insieme poi fatti anche, come appunto accennavo, dalla Lombardia o dalla Val d'Aosta o dalla regione Emilia-Romagna, tutti questi studi potessero mettere a punto un gruppo di lavoro e in qualche modo confluire in un'attività più vasta, fatti in questo modo sicuramente sono poco utili, ecco, quindi sarebbe veramente auspicabile avere più fondi e far sì che tutte queste attività possano in qualche modo essere coordinate a livello nazionale e fisico. Insomma, al momento solo piccoli interventi e molto limitati, un po' sì, questo molto il quadro. Limitati, certo. Grazie a Lorenza Fiumi, CNR. Prego, buona giornata. E sentiremo anche allora cosa proporranno oggi Guariniello e Caselli. Prima edizione. Il grande show è davvero iniziato e parliamo del Festival di Sanremo, iniziato ieri con un blitz anche della Guardia di Finanza, scattato proprio sulle prime note del Festival. Da qualche decina di metri all'ingresso dell'Ariston, via via lungo via Matteotti fino al Casinò, bar, ristoranti, alberghi, tutti sono stati controllati, così come i proprietari delle grandi auto di lusso che girano in questi giorni attorno al teatro dell'Ariston. Staremo a vedere nelle prossime ore cosa sarà emerso. Nel frattempo invece già tutto si sa di una gara che non ha funzionato, delle polemiche di Celentano, e allora andiamo a Sanremo da Marta Cagnola. Per chi fosse andato a nanna presto e presto si è svegliato, ecco quello che è successo ieri sera qui a Sanremo. Diciamolo subito, chi si aspettava qualcosa di diverso dalla prima serata del 62esimo festival si sbagliava e di grosso. Era stato annunciato un intervento di Adriano Celentano lungo quasi un'ora e così è stato. E chi conosce Celentano non si aspettava nulla di differente da un sermone infinito e qualche attacco frontale. E infatti anche qui così è stato. Giornali inutili come L'Avvenire e Famiglia Cristiana andrebbero chiusi definitivamente. Si occupano di politica e delle beghe nel mondo anziché parlare di Dio e dei suoi progetti. E le prime reazioni non si sono fatte attendere. Davvero un bello spettacolo, bravo, viva Sanremo e viva la Rai, replica dal sito di Avvenire il direttore Marco Tarquinio. Tutto questo perché abbiamo scritto che con quel che costa lui alla Rai per una serata si potevano non chiudere le sedi giornalistiche nel sud del mondo e farle funzionare per un anno intero. E il segretario dell'FNSI Franco Siddi parla di battute senza senso sui giornali da parte di Celentano. Antonio Di Pietro, Parisi e Segni, come al solito, hanno esagerato e ne hanno raccolte 1.200.000. 1.200.000. Che la Consulta non ha esitato a buttare nel cestino. Nel cestino, nel cestino, nel cestino. E poi strali feroci sulla Consulta che ha bocciato il referendum sulla legge elettorale, critiche al direttore generale della RAI, Lorenza Lei, che ha distanziato Santoro, un insulto a Aldo Grasso, critico televisivo del Corriere, accenni al referendum sulla privatizzazione della RAI, riferimenti religiosi, il governo Monti definito materiale di ottima resistenza, apparentemente indipendente, facile all'ossido dei partiti. Come ti chiami? Italia. Resta un po' qui. Non posso. Perché? Le cose non vanno bene ed io sto perdendo la mia bellezza. Tornerai? Sì, se gli italiani lo vorranno. Senza di te non ci posso stare. Sicuramente ottenuto l'effetto polemiche, vedremo cosa sarà degli ascolti. Servono altissimi per far partire un'edizione di Sanremo che per ora però ha sicuramente penalizzato la musica. Metà dei cantanti infatti si sono esibiti tardissimo. L'ultimo colpo di scena a 12:30 per un problema tecnico, votazioni annullate. Hanno deciso di sospendere la gara di stasera permettendo a tutti i 14 artisti di riesibirsi domani sera quando di nuovo ci sarà la gara. Però Io vorrei ringraziare comunque per il loro impegno, per il loro lavoro, i giurati. Inquadrateli e salutiamoli. Perché, ecco, non è giusto favorire qualcuno e sfavorire qualcun altro. Perché le votazioni si sono inceppati i meccanismi, quindi non si può. Veramente sarebbe molto grave. Nessuno eliminato per la prima sera. Oggi cosa succederà? Chi ci sarà? Arriverà Ivana infortunata o torneranno Eli e Belen? La risposta forse più tardi nella tradizionale conferenza di mezzogiorno o questa sera la seconda di Sanremo 62. Grazie alla nostra inviata Sanremo, Marta Cagnola. La ritroveremo domani fino alla fine del festival, la prima edizione, per raccontarci queste serate sanremesi e queste polemiche. Grazie a lei e grazie come sempre Peter Bescapè, Viola Bottoni in regia. Noi ci sentiamo tra pochissimo con GR24. Buon proseguimento di giornata da Anna Migliorati.